Il cameriere entrava. Non gli dicevo che avevo suonato tante volte, perché mi rendevo conto che fino a quel momento avevo solo sognato di suonare. Ma ero spaventato dal pensiero che quel sogno avesse avuto la nitidezza della conoscenza. Poteva darsi che la conoscenza avesse reciprocamente l'irrealtà del sogno? In compenso gli chiedevo chi avesse tanto suonato quella notte. Mi diceva nessuno. E potevo affermarlo con certezza, giacché sarebbe risultato dal quadro dei campanelli. Eppure sentivo i colpi ripetuti, quasi furiosi, che mi vibravano ancora nell'orecchio e mi sarebbero rimasti percettibili per giorni e giorni. È raro, tuttavia, che il sogno getti così nella veglia dei ricordi che non muoiono con esso. Simili aeroliti si possono contare. Se ciò che il sonno ha forgiato è un'idea, essa si dissocia ben presto in frammenti sottili, introvabili. Ma quella volta il sonno aveva fabbricato dei suoni. Più materiali e più semplici, duravano più a lungo. Ero stupito dell'ora relativamente mattutina comunicatami dal cameriere. Non per questo mi sentivo meno riposato. Sono i sonni leggeri a durare più a lungo, perché a metà fra la veglia e il sonno, esserbando della prima una nozione un po' sbiadita ma persistente, hanno bisogno di molto più tempo per riposarci rispetto a un sonno profondo, che può essere breve. Mi sentivo particolarmente bene per un'altra ragione. Se basta ricordarsi d'essere stanchi per avvertire penosamente la propria stanchezza, dirsi «mi sono riposato», basta a creare riposo. Ora, avevo sognato che il signor di Charlieu aveva 110 anni e aveva appena dato un paio di schiaffi a sua madre, Madame Verdurin, perché questa aveva comprato per 5 miliardi un mazzolino di violette. Ero dunque sicuro d'aver dormito profondamente, sognato in contrasto con le mie nozioni della veglia e con ogni possibilità della vita corrente. E questo era sufficiente a farmi sentire del tutto riposato. Avrei sbalordito mia madre, la quale non riusciva a spiegarsi l'assiduità di Charlieu de Verdurin, se le avessi raccontato, proprio lo stesso giorno in cui avevo ordinato il berretto di Albertine, senza dirgliene niente in modo da poterle fare una sorpresa, con chi il barone era venuto a pranzare in una saletta del Grand Hotel di Balbec. L'invitato altri non era che il lacchè di una cugina dei Cambremer. Questo lacchè era vestito con grande eleganza e quando attraversò la hall accanto a Charlieu fece la sua figura mondana agli occhi dei turisti, come avrebbe detto Saint-Loup. Né i giovani fattorini, i leviti, i quali scendevano a frotte i gradini del tempio proprio in quel momento, perché era l'ora del cambio di turno, prestarono una particolare attenzione ai due nuovi arrivati, uno dei quali, Charlieu, abbassando gli occhi, voleva significare che ne accordava loro ben poca. Sembrava che si facesse strada in mezzo a loro. «Prospere, cher espoir d'une nation sainte», mormorò, ricordando, ma citati in tutt'altro senso, alcuni versi di Racine. «Prego?» chiese il lacchè, che aveva scarsa dimestichezza con i classici. Il signor di Charlieu non gli rispose, perché riponeva un qualche orgoglio nel non tenere conto delle domande e nel camminare dritto davanti a sé, come se l'albergo non avesse avuto altri clienti e al mondo non fosse esistito che lui, il barone di Charlieu. Ma avendo proseguito con i versi di Josabeth, «Venez, venez, mes filles», provò un senso di disgusto e non aggiunse come lei «il faut les appeler», perché quei giovanetti non avevano ancora raggiunto l'età in cui il sesso è interamente formato, vale a dire l'età che piaceva a lui. D'altronde, se aveva scritto, non dubitando della sua docilità, al lacchè di Madame de Chevrigny, aveva sperato che fosse più virile. Lo trovava, vedendolo, più effeminato di quel che avrebbe voluto. Gli disse che si era aspettato di incontrare un altro perché conosceva di vista un altro lacchè di Madame de Chevrigny che in effetti aveva notato sulla carrozza. era una specie di contadino assai rustico, tutto l'opposto di questo, il quale, tenendo invece le proprie sdolcinatezze per altrettanti pregi, ed essendo convinto d'aver sedotto Charlus con le sue qualità mondane, non capì nemmeno di chi il barone intendesse parlare. «Ma ho un solo compagno e non è certo uno che possa avervi colpito. È orribile, sembra un contadinotto». E all'idea che forse il barone aveva adocchiato proprio quello zotico, sentì una trafittura al suo amor proprio. Il barone lo intuì e, allargando l'inchiesta, «Ma non ho mica fatto voto di conoscere solo il personale di Madame de Chevrigny», disse. «Non potreste, qui oppure a Parigi, visto che ci tornate presto, presentarmi qualcuno dei vostri compagni di altre case?» «Oh no», rispose il lacchè, «non frequento nessuno della mia classe. Con loro non parlo che per ragioni di servizio. Ma c'è una persona molto distinta che potrei presentarvi». «Chi?» domandò il barone. «Il principe di Garmont». Charlus si stizzì che gli venisse offerto solo un uomo di quell'età e per il quale del resto non aveva bisogno della raccomandazione di un lacchè. Così declinò seccamente l'offerta e, non lasciandosi scoraggiare dalle pretese mondane del domestico, ricominciò a spiegargli quello che avrebbe voluto, il genere, il tipo, per esempio un fantino, eccetera. Temendo che il notaio, che passava in quel momento, l'avesse sentito, gli parve astuto far vedere che parlava non di ciò che si sarebbe potuto credere, ma di tutt'altro, e disse con insistenza e a voce alta, come continuando la sua conversazione: «Sì, malgrado la mia età, mi è rimasta la passione di collezionare sciocchezze, la passione degli oggetti graziosi. Faccio follie per un vecchio bronzo, per un lampadario antico. Adoro il bello». Ma per far capire al lacchè il cambiamento di soggetto eseguito con tanta rapidità, Charlus sottolineava talmente ogni parola e, oltretutto, per farsi sentire dal notaio, le gridava così forte che l'intera scenetta sarebbe bastata a svelare ciò che voleva nascondere a orecchie un po' più accorte di quelle del pubblico ufficiale. Questi non dubitò di nulla, non più degli altri clienti dell'albergo, i quali videro tutti, nel lacchè così azzimato, un elegante straniero. In compenso, se le persone di mondo si ingannarono e lo presero per un americano molto chic, i domestici lo etichettarono a prima vista. Così come un forzato riconosce un forzato, anzi, ancora più rapidamente, fiutando la distanza come certi animali un altro animale. Gli addetti ai tavoli inarcarono il sopracciglio. Aimé gettò uno sguardo sospettoso. Il sommelier, alzando le spalle, si mise una mano davanti alla bocca, gesto secondo lui cortese, per dire una frase sgarbata che tutti sentirono. E anche la nostra vecchia Françoise, la cui vista peggiorava e che passava in quel momento davanti alle scale per andare a pranzo dai dipendenti, alzò la testa, riconobbe un domestico laddove gli ospiti dell'albergo non lo sospettavano, come la vecchia nutrice Euriclea riconosce Ulisse molto prima dei pretendenti che siedono a banchetto, e vedendo il signor di Charlus camminare familiarmente al suo fianco, prese un'espressione afflitta, come se le cattiverie che aveva sentite e non credute avessero acquistato di colpo ai suoi occhi una desolante verosimiglianza. Non parlò mai, né a me né ad altri, di questo incidente, ma dovette far compiere al suo cervello un notevole lavoro, giacché ogni volta che in seguito a Parigi ebbe occasione di vedere Julien, cui fino a quel momento aveva voluto tanto bene, continuò a trattarlo con cortesia, ma più fredda e costantemente addizionata d'una forte dose di riserbo. Viceversa, lo stesso incidente indusse qualcun altro a confidarsi con me. E me. Quando aveva incrociato il signor di Charlus, questi, che non s'era immaginato di incontrarmi, mi gridò, alzando la mano: «Buonasera!» con l'indifferenza almeno apparente di un gran signore convinto che tutto gli sia permesso e che ritiene più abile non aver l'aria di nascondersi. Ora Aimé, che in quel momento lo stava osservando con sguardo diffidente e mi vide salutare il compagno di colui nel quale era certo d'aver riconosciuto un domestico, la sera stessa venne a chiedermi chi fosse. Da un po' di tempo, infatti, Aimé amava conversare, o meglio, come diceva lui, probabilmente per sottolineare il carattere a suo avviso filosofico dei suoi discorsi, discutere con me. E poiché gli dicevo spesso di trovare imbarazzante che restasse in piedi accanto a me mentre io pranzavo, quando avrebbe potuto sedersi e dividere il mio pasto, sosteneva di non aver mai visto un cliente ragionare così giusto. Stava parlando in quel momento con due camerieri. Mi avevano salutato, ma non sapevo perché. I loro volti mi erano sconosciuti, sebbene in ciò che dicevano risuonasse un'eco che non mi sembrava nuova. Aimé faceva loro una predica a causa del loro fidanzamento, che disapprovava. Mi chiamò a testimone, obiettai che non potevo avere alcuna opinione, dato che non li conoscevo. Mi ricordarono il loro nome ed avermi servito spesso a Rivebelle. Ma uno s'era fatto crescere i baffi, l'altro se li era tagliati e aveva i capelli cortissimi, e per questo, benché sulle loro spalle fosse ancora posata la testa d'un tempo e non un'altra, come negli incauti restauri di Notre Dame, essa m'era rimasta invisibile al pari di quegli oggetti che sfuggono alle più minuziose perquisizioni, standosene tranquillamente sotto gli occhi di tutti, senza che nessuno se ne accorga, sulla mensola d'un camino. Non appena udii i loro nomi, riconobbi con precisione la musica incerta delle loro voci, perché rividi le loro vecchie facce che la determinavano. «Vogliono sposarsi e non sanno neanche l'inglese», mi disse Aimé, non pensando che ero poco al corrente della professione alberghiera, e facevo fatica a capire che, se uno non conosce le lingue straniere, non può aspirare a farsi una posizione. Convinto che egli potesse facilmente sapere che il nuovo cliente era signor di Charlieu, e supponendo inoltre che dovesse ricordarselo, giacché l'aveva servito in sala da pranzo quando, durante il mio primo soggiorno a Balbec, il barone era venuto a trovare Madame de Villeparisis, gliene dissi il nome. Ora, non solo Aimé non si ricordava di Charlieu, ma mi parve che quel nome gli facesse una profonda impressione. Mi disse che l'indomani avrebbe cercato fra le sue cose una lettera che forse io ero in grado di spiegargli. Ne fui tanto più stupito perché Charlieu, quando il primo anno a Balbec aveva voluto darmi un libro di Bergotte, aveva chiesto in particolare di Aimé, che aveva poi dovuto ritrovare in quel ristorante di Parigi dove io ero stato a colazione con Saint-Lou e la sua amante, e Charlieu era venuto a spiarci. È vero che Aimé non aveva potuto sbrigare di persona quegli incarichi, la prima volta perché stava dormendo, la seconda perché era impegnato nel servizio. Avevo tuttavia forti dubbi sulla sua sincerità quando pretendeva di non conoscere il signor di Charlieu. Da un lato, Aimé doveva essere andato a genio al barone. Come tutti i domestici d'alto rango dell'albergo di Balbec, come parecchi camerieri del principe di Guermont, Aimé apparteneva a una razza più antica e dunque più nobile di quella del principe. Quando si chiedeva una saletta, all'inizio ci si credeva soli. Ma subito dopo si scorgeva nell'office uno scultoreo capocameriere del genere etrusco rossiccio di cui Aimé era l'emblema, un po' invecchiato dagli eccessi di champagne e già in vista dell'ora ineluttabile dell'acqua di Contrecheville. Non tutti chiedevano loro soltanto d'essere serviti. I commessi, che erano giovani, scrupolosi, indaffarati, con un amante ad aspettarli in città, se la svignavano. Per questo Aimé li rimproverava di non essere seri. Ne aveva il diritto. Serio lui lo era. Aveva moglie e figli, nutriva ambizioni per loro. Così le avance di qualche straniera o straniero non le respingeva, a costo di dover rimanere tutta la notte, perché il lavoro deve passare avanti a tutto.